An-Nasr, l'ausilio. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Iza jaa nasrullahi wal fath. Quando verrà l'ausilio di Allah e la vittoria, e vedrai le genti entrare in massa nella religione di Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Glorifica il tuo Signore, lodandolo, e chiedigli perdono. In verità egli è colui che accetta il pentimento.